bella Pirolla, yeah. Da Dream e Grigi Criminali, insieme a Gonzales, Bino, La Riviera, pezzi di merda. Oh, 2008, Bino, mixtape culo, presto fuori. Case popolari che assorbono, canti popolari che ci commuovono, gente popolare intorno e niente di nuovo. Ogni giorno è come se fosse un cazzo di ritrovo. Ti ritrovo e ti sento quando mi muovo, ma nascosto così bene i sentimenti per quando ne covo. Di rancore non provo dolore, scopro che io sono io, come tale non vale il tuo gioco. Ed è per questo che nei brutti momenti ti invoco. Fare fuori lo stipendio rimane lo scopo. Più fuoco, più fumo dalle casse, le canne bene in alto, i piedi sulle carcasse. Ti sei messo in testa che sei il migliore, forse l'unico motivo per cui esci da ogni malumore. Ti sei promesso che gli altri pieni di acidia, prima o poi dovranno guardarti e provare invidia. La mia situazione come la si rimedia? Tre demo rap, licenza da terza media, gancio e jab, se la stoffa non ha da problema. Di cinque c'è chi continua a tenerla vera. Ed è per questo che nei brutti momenti ti invoco. Fare fuori lo stipendio rimane lo scopo. Più fuoco, più fumo dalle casse, le canne bene in alto e i piedi sulle carcasse. Folline sui palazzi, tappeti appesi, teste dure dai terrazzi fanno dialoghi accesi. Bandiere arcobaleno sempre sventolate in alto, hanno dimenticato che il danno è già stato fatto. Ed è per questo che nei brutti momenti ti invoco. Fare fuori lo stipendio rimane lo scopo. Più fuoco, più fumo dalle casse, le canne bene in alto e i piedi sulle carcasse. Davanti al mare, fuori dalle case popolari. Bang, no, no, vieni infottati, sempre di più infottati, ah! Mattina via di casa con la mente già appannata, i raggi del sole avvolgono la mia giornata. Musi lunghi come un quadro che si scioglie, automobili che vanno trascinandosi le foglie. Stessi luoghi, stessi nomi, stessi imbrogli, è un motore che va mentre noi riempiamo i fogli. Negli appartamenti stanchi delle strade di città c'è un violino che va al petto come il taglio di una spada, dove la malinconia si aggiunge alla fantasia e ogni minima pazzia dà fuoco a una melodia. Poi di notte solo il buio ci regala dei colori, case popolari, sicurezze sui timori. Ed è per questo che nei brutti momenti ti invoco. Fare fuori lo stipendio rimane lo scopo.